24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati a 24 mattino. Il nostro numero per gli SMS è il 349-238-6666. È il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani, ben ritrovata Deborah. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, ho la domanda. Sì, mi viene già da ridere. No, ridiamo la perché... La domanda ce l'ho io per la verità. Perché mea culpa. Perché io sto dicendo da tutta la mattina che parliamo di telefonia quando non parliamo di telefonia? Perché forse non a metà... c'è una risposta in realtà. No, ma in realtà c'è, domanda. Magari hai avuto così una preveggenza, se si dice questa parola terribile. Chi lo sa. In realtà ci arriveremo a parlarne questa mattina. Vabbè, mi hai salvato, dai, però parliamo d'altro. Ieri mattina tu volevi denunciarmi e invece d'altro. Stamattina, come vedi, ti salvo. In realtà parliamo di carte prepagate, parliamo di moneta elettronica di pagamento. Perché? Perché c'è stata una indagine dell'autorità garante del mercato e della concorrenza, dell'antitrust, intorno alla diffusione nel nostro paese delle carte prepagate, e si è scoperta una cosa molto interessante, che sono molto costose. È un peccato perché ci sembravano la più bella novità del settore bancario degli ultimi anni, probabilmente lo sono ancora, perché sono degli strumenti molto utili che ci aiutano anche a tenere sotto controllo le nostre spese mensili. Sono molto utili perché molto spesso invece del contante sono, come dire, una forma di regalo che un nonno può fare a un nipote piuttosto che un genitore ad un figlio come forma di paghetta. Invece, come dicevo, abbiamo scoperto che sono molto costosi. Allora, buongiorno alla dottoressa Emanuela Goggiamani, dirigente dell'autorità. Ho sintetizzato moltissimo l'esito della vostra indagine conoscitiva, che poi in realtà arriva anche ad un'altra conclusione molto interessante. Dottoressa Goggiamani, però la questione è che davvero sono un po' onerose per le nostre tasche. Da che cosa muove i passi la vostra indagine? La nostra indagine muove i passi dall'idea di indagare tutto il settore delle carte prepagate, quindi le carte prepagate bancarie, vale a dire quelle aperte, quelle che permettono di fare qualsiasi tipo di pagamento, e anche le carte prepagate chiuse, quindi tipicamente le carte ricaricabili telefoniche, ma anche il Telepass piuttosto che il sistema per pagare la TV a pagamento. È emerso da questa indagine che le carte bancarie sono uno strumento in grande evoluzione. Abbiamo registrato dei tassi di crescita annui del 72,2%. Questo a partire dal 2003, lo volevo ricordare, ed è un tasso di crescita che ci ha portato ad una diffusione di quasi 6 milioni di carte nel nostro paese. Esattamente. Ma a costi che in realtà sono ancora elevati e comunque in linea con gli altri strumenti di pagamento tipicamente bancari e postali. La cosa interessante che è emersa da questa indagine è legata alle potenzialità connesse con l'utilizzo delle carte ricaricabili telefoniche. Questa è una strada che al momento non è percorribile, ma lo sarà se la direttiva europea sulla moneta elettronica, che è in discussione in questi giorni proprio al Parlamento europeo, verrà approvata, perché permetterà l'ingresso nel settore del sistema di pagamento anche dei cosiddetti operatori ibridi, vale a dire operatori che fanno altro di mestiere, ma possono, con alcuni requisiti ovviamente di stabilità, patrimonializzazione e quant'altro, operare anche nel settore della moneta elettronica. Ecco, anche alla luce del fatto che, ricordiamolo, qualche anno fa le liberalizzazioni di Bersani hanno abolito il costo di ricarica nell'ambito della telefonia, per cui anche questo potrebbe incentivare l'utilizzo di questo veicolo. Però ritorniamo per un attimo alla vostra indagine, poi arriviamo anche agli strumenti ibridi che lei citava, dottoressa Goggiamani. Quali sono i costi delle carte prepagate? Quali dati vi hanno... Molto a seconda che la carta sia, diciamo, uno strumento connesso a un conto corrente, e in questo caso sono abbastanza contenuti perché, diciamo, c'è una media di costi di 18 euro annui e si va da un minimo di 14 euro a un massimo di 22 euro. Noi abbiamo fatto un'indagine a campione tra le banche e questo è il risultato che esce fuori, mentre il costo è più sostenuto laddove la carta prepagata sia utilizzata da chi non ha un conto corrente, e tipicamente i giovani, gli studenti, i lavoratori stranieri, eccetera, perché in questo caso il costo va da, diciamo, un valore medio di 67 euro da un minimo di 44 a un massimo di 117 euro annui. Quindi, insomma, proprio come una carta di credito costa. Esatto. La potenzialità delle carte invece telefoniche sta nel fatto che i costi di ricarica, grazie alla Bersani, sono zero, il credito è rimborsabile, quindi rappresenta uno strumento estremamente flessibile a costi sostanzialmente inesistenti per il consumatore e presumibilmente comunque ridotti anche per gli esercenti. In ogni caso, noi ovviamente facendo di mestiere l'antitrust non possiamo che vedere con favore l'ingresso di operatori con una massa d'urto notevole, perché pensiamo che le carte di telefoniche ricaricabili sono 80 milioni nel nostro paese, infatti. E quindi questo ovviamente innescherebbe un livello di concorrenza elevato e quindi porterebbe, noi presumiamo, anche a una riduzione dei costi delle carte bancarie. No, tra l'altro ci è sembrata anche piuttosto singolare la vostra indagine, dottoressa Goggiamani, proprio per il fatto che lei citava che dopo aver analizzato l'entità del fenomeno e le sue caratteristiche nel nostro paese, avete portato avanti anche un discorso di una proposta alla luce di questa direttiva europea che tra l'altro comincia la sua discussione a Bruxelles proprio in questi giorni, se non ricordo male. No, esattamente, credo tra oggi e domani parte l'esame. Allora, le potenzialità degli operatori di telefonia mobile che con 80 milioni di carte, diceva l'antitrust, costituivano alla fine del 2007 la principale componente delle carte prepagate chiuse nel nostro paese. Se dovesse passare questa direttiva, dottoressa Goggiamani, avremo ovviamente ancora altri mesi di tempo per discutere dell'argomento, ma bisognerà mettere d'accordo anche banche e operatori della telefonia. Come potrebbe concretizzarsi l'avvento di questa novità? Guardi, potenzialmente, ed è forse l'elemento più innovativo e più interessante, il meccanismo di pagamento potrebbe svolgersi al di fuori dei normali circuiti bancari e interbancari. Sostanzialmente il pagamento avverrebbe carta telefonica su carta telefonica, cioè io consumatore vado a fare la spesa e con un SMS carico la carta telefonica del supermercato. Questo è un modello possibile ed è un modello ovviamente che taglia fuori il circuito bancario con un enorme risparmio ovviamente per l'esercente, quindi poi alla fine per tutto il sistema economico. È un modello già sperimentato altrove? Poi mi racconta anche l'altra alternativa. No, perché attualmente non è previsto nel settore della moneta elettronica, non sono previsti gli operatori ibridi. In realtà il motivo per cui la Commissione europea ha portato questa proposta di modifica della normativa esistente al Parlamento europeo è proprio perché anche a livello europeo non sono soddisfatti della diffusione della moneta elettronica, c'è ancora molta strada da fare, noi italiani siamo particolarmente indietro, ma in realtà anche a livello europeo la moneta elettronica non si è diffusa così come sarebbe stato auspicabile e l'ingresso degli operatori ibridi viene considerato uno degli strumenti per allargare il mercato della moneta elettronica. Ecco, tra l'altro, proprio per suffragare quello che ci stava dicendo, ho un dato: a fronte di una media dell'area euro di circa 55 operazioni pro capite effettuate con carte di pagamento e di 154 effettuate negli Stati Uniti, in Italia, fa notare proprio l'antitrust, si registrano solo 21 operazioni pro capite l'anno. Questa mattina Repubblica presenta un dossier stop al regno delle credit card, così gli Stati Uniti si scoprono europei, arriva la rivoluzione dei consumi targata Obama. È un momento, dottoressa Goggiamani, in cui tutte le attitudini all'indebitamento, quindi anche quelle che vengono portate avanti attraverso l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento come la carta di credito, vengono tenute severamente sotto controllo. Secondo lei, nel nostro paese questo comporterà un ulteriore freno all'utilizzo di carte di credito, bancomat, che già nel nostro paese sono viste, insomma, un utilizzo visto con un po' di resistenza dagli italiani? Guardi, questo diciamo è un fenomeno ovviamente da valutare. Certo è che il concetto di carta ricaricabile va incontro proprio a questa esigenza di controllo della spesa. Uno dei motivi per cui la carta ricaricabile telefonica, per esempio, è tanto diffusa nel nostro paese è proprio perché attraverso la ricarica telefonica io posso tenere sotto controllo i miei consumi. Se questo venisse esteso al resto dei pagamenti, ovviamente stiamo parlando dei cosiddetti micropagamenti, quindi la spesa piccola, i 60, i 70, i 100 euro, non stiamo parlando di spese enormi. Però il meccanismo della ricarica è proprio uno strumento che permette di tenere sotto controllo la spesa ed è il motivo per cui si è diffusa tanto a livello di carta telefonica e potrebbe essere interessante come strumento anche per il resto dei pagamenti. Peraltro c'è un problema di sicurezza, anche là le carte prepagate bancarie sono cresciute tanto proprio perché per esempio per i pagamenti via internet la gente si sente più sicura a utilizzare una prepagata su cui si sono caricati 100 euro, perché male che vada, se qualcuno clona la carta, ha clonato 100 euro, ma non può prelevare chissà quanto dalla conto. Insomma, però per rendere ancora più visibili tutti questi vantaggi bisogna anche che i costi si facciano più sostenibili per i consumatori. La ringrazio molto per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Era con noi la dottoressa Emanuela Goggiamani, dirigente dell'autorità garante della concorrenza del mercato, quindi dell'antitrust. Alessandro. Benissimo. Beh, tutto non ho sbagliato, dai. No, infatti, anzi, cioè, hai azzeccato sei quasi meno, al 60%. Sei meno. Tu la usi la prepagata? Sì, no, sei meno. Bravo. Questo è il voto che mi do, con molta modestia. Allora, Deborah, 7.30, oggi ritorniamo alla dichiarazione dei redditi perché siamo ormai al rush finale per consegnare il nostro modello al sostituto d'imposta. 7.30 alle 12. E 8.32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Il presidente iraniano Ahmadinejad parla alla conferenza di Ginevra sul razzismo e accusa: dopo il 1945 si è insediato un governo razzista nel cuore del Medio Oriente. Ahmadinejad non nomina Israele, ma il riferimento è evidente e i delegati europei abbandonano l'aula. La Commissione europea ringrazia il governo italiano per aver accolto i 140 migranti del cargo turco Pinar, ma il caso non è chiuso. Il ministro dell'Interno Maroni avrebbe pronto un dossier da presentare alla Commissione stessa che accusa il governo di Malta. Un pool antimafia vigilerà sulla ricostruzione dell'Abruzzo post-terremoto. Si tratta di 4 magistrati nominati dal procuratore nazionale Piero Grasso. Infine il calcio, una partita a porte chiuse per la Juventus, questa la sanzione senza precedenti nei confronti della società bianconera per i cori razzisti dei tifosi contro l'interista Balotelli. E allora alle 8.33 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Come detto, parliamo del terremoto e in particolare della lista dei 49 comuni, 49 per ora, che sono stati inclusi nell'area nella lista dei paesi terremotati colpiti dal sisma. 49 ci sono, altri non ci sono, altri comuni, e protestano. Qualcuno dice: bussano alle casse dello Stato, sarebbe forse un po' impietoso, però insomma oggi basta prendere la stampa. Ferruccio Sansa a Pizzoferrato in provincia di Chieti racconta: Nicola Tarantini, sindaco di Pizzoferrato, 1200 anime, 87 chilometri dall'epicentro, due in più e si va a Roma da un'altra parte ovviamente, un omone dagli occhi chiari a cui va riconosciuto un merito, l'onestà. Tra i danni non dichiara nemmeno di avere subito danni. Come, signor sindaco? Nemmeno un crollo? Nessun crollo. Nemmeno una crepa? No. È caduto qualche sasso. E allora le case hanno subito un grande stress. Io saluto il sindaco di Sulmona, Fabio Federico. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Allora, non è una questione di fare una guerra ai finanziamenti, un accaparrarsi i soldi dello Stato, però il passato ce l'ha insegnato, ci sono stati anche dei grandi sprechi. Sulmona non rientra in questa lista e lei, come altri comuni, vi siete lamentati. Perché? Ma innanzitutto ho fatto bene a dire che non rientra in questa prima lista, perché a detta del commissario straordinario Bertolaso, che lo ha detto proprio a me, questa è una prima lista fatta su una stima di danni nell'immediatezza del sisma. A detta del commissario Bertolaso, il comma 2 della legge sul terremoto consente l'inserimento di altri comuni nell'elenco di quelli terremotati. Noi non vogliamo fare nessun assalto alla diligenza, non chiediamo nulla di più di quello che ci spetta. Siamo persone per bene e dignitose, abbiamo compreso che in un primo momento tutta l'attenzione dovesse essere rivolta esclusivamente alla società e paesi che avevano avuto danni, soprattutto morti, sicuramente in maniera più significativa di noi, e quindi con molta dignità ed onestà non abbiamo dato una paglia. Adesso però i danni sono venuti fuori. Se lei pensa che io stesso non posso entrare nel mio ufficio da sindaco perché lesionato, ho dovuto firmare una trentina di evacuazioni per una trentina di immobili con le relative famiglie. Se lei pensa che ci sono appunto 60-70 persone che dormono in albergo, almeno 300 che dormono in tenda, e non si sa ancora quanti siano emigrati sulla costa, magari nella casa al mare o a casa di un parente, se lei pensa che abbiamo 15 chiese dichiarate inagibili, oltre 100 edifici con lesioni temporaneamente e parzialmente rilevabili, rilevate non da noi ma dal comma del commissario Bertolaso, Se a questo aggiungi che ci sono tre scuole, di cui una completamente chiusa perché è pericolante. Insomma, lei dice, visto tutto questo, avete diritto a rientrare in questa lista. Insomma. Sì, ma noi non è che lo diciamo noi, rientriamo in questa lista, lo dice la legge, noi siamo inseriti nel quinto grado della scala Mercalli dei danni, come se si fosse rotto un vaso di fiori. Ecco, mm-hmm. Noi abbiamo centinaia e centinaia di abitazioni non fruibili. Non no, ma questo sì, sindaco. Infatti noi l'abbiamo chiamata, ricordiamo che anche Sulmona fu protagonista anche di quel, possiamo dire, falso allarme, insomma, che generò anche, credo, una querela da parte, su una denuncia da parte... Sì, non da parte mia, ma da parte della questura. Una denuncia per procurato allarme, insomma. Sulmona è una città che, come tutte le città dell'Abruzzo, e non solo dell'Abruzzo, vivono nella paura. Però, sindaco, io tra l'altro abbiamo chiamato, con noi c'è anche un altro ospite, perché vogliamo anche dare uno sguardo al passato. È bene guardare al passato non per fare polemiche sterili, ma perché forse per una volta si può pensare che la ricostruzione possa avvenire in maniera un po' più limpida di quanto è successo qualche anno fa. Irpinia, 1980, ci fu un terribile terremoto, moltissime vittime, ci fu purtroppo anche, questa storia italiana, uno spreco di denaro immenso. Ci fu una commissione d'inchiesta presieduta dal presidente Oscar Luigi Scalfaro, vicepresidenti, uno di questi era il senatore, oggi avvocato, Achille Cutrera, che saluto, buongiorno. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Allora, io vorrei fare sentire a lei, al sindaco di Sulmona, Fabio Federico, quello che ci ha detto un altro sindaco di Prato La Peligna, il sindaco intervistato da Roberta Pellegatta. Sono pochi secondi, ma guarda, le parole sono importanti. Allora, io vorrei partire da queste. Sentite bene che cosa ha detto una parola in particolare. Abbiamo avuto dei danni, ho dovuto dichiarare inagibili tre chiese, tra cui il santuario. Ho dovuto chiudere il distretto sanitario di base. Noi non chiediamo di essere riconosciuti terremotatissimi come qualcuno pensa. Noi chiediamo soltanto di farci riconoscere il giusto. Allora, la parola è terremotatissimi. Non vogliamo essere considerati terremotatissimi, però terremotati un po' sì. Avvocato Cutrera, lei quando ha visto, avrà letto sui giornali questa insomma, la lista di quelli che ci sono, qualche rivendicazione, non dico protesta, rivendicazione giusta, cosa ha pensato? Un film già visto? Ma io ho pensato che in Abruzzo credo che le cose non andranno e non saranno come quelle che furono in Irpinia. In Irpinia fu un'occasione unica di sesto e di prelievo delle risorse dello Stato. L'Irpinia però ebbe un terremoto di gran lunga più espanso di quello degli Abruzzi, di cui si parla ora, e i comuni, tanto per dare un confronto, che furono considerati interessati dal terremoto, raggiunsero il numero di 687, quindi 687-49 di cui oggi si parla per l'Abruzzo è una proporzione che non sta neanche in 1,15. E 1,15 è un po' il numero che credo si dovrà tener conto anche a proposito dei danni che potranno emergere, perché questi rapporti con i numeri sono importanti. Certo che io sono rimasto ieri, leggendo i giornali, come lei accennava, abbastanza colpito e di nuovo preoccupato, perché quella commissione d'inchiesta presieduta dall'onorevole Scalfaro fu una commissione che per due anni, un anno e mezzo veramente, indagò con profondità e rivendicò anche un primato di obiettività. Si pensi che le conclusioni furono raggiunte all'unanimità con 40 membri di tutti i partiti, destra e sinistra, c'erano tutti. Le conclusioni raccolte in 20 volumi, un materiale a mio parere prezioso. Noi spesso, se mi permette, abbiamo il difetto che facciamo le inchieste e poi le raccogliamo con le loro carte grafiche facilissime da leggere e poi magari dimentichiamo nei cassetti. Ci furono, avvocato, episodi clamorosi. Si parlò, ma è vera la cifra di 60 mila miliardi? È la cifra. 60 mila è la cifra, e lei la può immaginare ripartita però in tre grandi voci, alcune delle quali io penso e spero non toccheranno affatto gli Abruzzi, così che sarebbe anche un elemento di chiarezza. Certo. La prima voce dei 60.000 fu riservata a un investimento su Napoli, che poco o nulla ebbe a che vedere col terremoto. e prese circa 15.000 miliardi, quindi un terzo, un quarto. Ieri, chiamando in uno dei paesi colpiti in Irpinia, il presidente della Proloco, uno che ha la memoria storica, anche quel terremoto, mi disse: noi avemmo i morti e Napoli i soldi. No, è brutale, insomma. Ma... No, esatto, esatto. Napoli è tutto esatto. Napoli colse l'occasione per una serie di interventi probabilmente importantissimi, utili per la città, non è assolutamente valutazione di questo genere, ma certo che quando noi parliamo di 60.000 teniamo conto che 15.000, un quarto, andarono a Napoli, che di danni ne ebbe in una misura limitatissima, forse nessuna, e il resto fu distribuito in due grandi partite, una riservata ai comuni per il titolo della ricostruzione e l'altra riservata invece a interventi dello Stato più o meno diretti fra le varie amministrazioni, riservata alla costruzione di nuove infrastrutture e nuove attività industriali nella zona. Quindi in realtà dei 60.000 quanto andò per la ricostruzione conseguente in via diretta al terremoto fu un terzo, 20.000, cioè la cifra di 20.000 miliardi di lire, parliamo, riservate ai comuni di quella zona. Sì, ieri leggevo su un sito Irpinia nel mondo, tra i tanti sprechi, i più clamorosi poi scoperti, la Fondo Valle Sele, 24 miliardi di lire al chilometro, lo stadio comunale di San Gregorio Magno, paese di 3.000 abitanti in provincia di Salerno, costò più dello stadio di San Paolo di Napoli. Alcuni giornalisti scoprirono che ad Avellino c'era la più alta vendita di Mercedes e Volvo. Gli possessori di yacht dopo il sisma passarono da 4 a oltre 100. Ma comunque, io, sindaco di Sulmona, non, come ha detto Cutrera, non vogliamo e sappiamo e vogliamo sperare non sarà così come è successo in Irpinia, come è successo anche in parte in Molise, in Umbria, insomma in tutte le ricostruzioni. Le chiedo, secondo lei c'è qualcuno, lei ci ha detto le sue motivazioni, il presidente Bertolazzo, insomma, la Protezione Civile aveva assicurato, secondo lei però c'è qualcuno che un po' ci sta marciando? Io quando sento degli edifici stressati un pochino, insomma, mi stresso anch'io obiettivamente. Ma guardi, innanzitutto devo dirle che è doloroso ascoltare questi discorsi, peraltro giusti del professor Cutrera, che sta facendo lei mentre in questo momento c'ho almeno 300 persone sotto le tende mentre piove, sta piovendo e fa pure freddo, tra l'altro. Avrei preferito non averli danni, avrei preferito non fare le ordinanze. Io leggo la legge che si chiama Scala Mercalli. La scala Mercalli al quinto, numero 5, il quinto grado della scala Mercalli, parla di spostamento di liquidi, versamento di liquidi tra recipienti, spostamento e rovesciamento di piccoli oggetti, porte che si aprono e chiudono. Non parla di edifici, ancorché non crollati, ma pericolanti. Io avrei voluto non emettere quelle ordinanze. Quindi dico semplicemente, i commissari del commissario, gli ispettori del commissario Bertolaso stanno facendo il loro lavoro. Noi siamo abruzzesi, non chiediamo nulla di più di quello che ci compete, perché siamo persone oneste e per bene. Se ci toccherà di rientrare nella legge del terremoto con i relativi benefici, è bene. Viceversa, se non dovessimo entrare, e l'ho già detto provocatoriamente, vuol dire che io ho sbagliato a fare le ordinanze, vuol dire che le case non sono pericolanti, quindi sono agibili, vuol dire che revoco le ordinanze, vuol dire che la gente è entrata nelle chiese, i bambini nelle scuole, la gente nelle case. Guardi, sindaco, nessuno però sta dicendo che lei non ha diritto, non ha sbagliato, però secondo me è importante invece tenere a mente questi dati dell'Irpinia, ma non per paragonare, l'ha detto anche il senatore Cutrera, non accadrà questo in Abruzzo, però sa com'è, dobbiamo sempre anche guardare il passato, perché ci saranno tanti diritti, ma anche in base a quella legge a cui lei fa riferimento, insomma, in passato sono stati fatti tanti sperperi. Comunque, concluda, sindaco, lei vorrà, insomma, entrare in questa lista e noi, se lei ne ha diritto, siamo i primi a dire sia così, assolutamente, cioè non vogliamo toglierle un diritto, però sa, in passato è successo questo. Lo so, però vede, noi abbiamo avuto già 2-3 terremoti qui a Sulmona. Il primo è il terremoto vero, il secondo è il terremoto che si è inserito su una situazione economica disastrosa. Il terzo sono stati i profeti del disastro del terremoto sul Mono, non so se ricorda quelli che profetizzavano. E come no? Cioè, adesso dicevo vorrei della avere denuncia. Il quarto terremoto, cioè il terremoto di quelli che ci marciano per fare l'assalto alla religione. Ma guardi, così siamo, le assicuro che così non è. Siamo i primi, no, ma siamo i primi a sperarlo assolutamente, sindaco. E ripeto, se lei, se Sulmona, se i cittadini di Sulmona hanno tutti i diritti a ricadere nella lista dei paesi terremotati, è giusto che sia così. Insomma, non stiamo a dire. E in passato, purtroppo, insomma, che si vigili, ecco, ma so che Piero Grasso ha mandato quattro magistrati antimafia molto validi. Uno lo conosco personalmente, il dottor Alberto Cisterna, una persona straordinaria, insomma, sono sicuro che questo non avverrà, però è bene sapere che in passato purtroppo tante volte è successo. Io mi devo fermare, ma vi ringrazio sia il sindaco di Sulmona Fabio Federico, sia Achille Cutrera, che fu vicepresidente di quella commissione d'inchiesta sul terremoto in Irpinia. Allora, alle 8:48 minuti voglio salutare l'onorevole Gabriella Mondello del Popolo della Libertà. Onorevole, buongiorno. Buongiorno, saluto lei e tutti i radioascoltatori. Va bene, le rubiamo pochi minuti perché tra poco inizia anche un consiglio comunale a Lavagna, dove so che lei è stata anche sindaco, ma ancora in consiglio comunale. Allora io partirei subito, farei ascoltare la sua stessa voce, un intervento alla Camera, non ricordo la data, forse lei poi ce lo dirà, ma insomma il tema è la votazione, quella nuova, no? Quella antipianisti, quella con le minuzie, cioè le impronte, il voto che vuole stanare tutti i pianisti, che è stato inserito da qualche tempo alla Camera, però che suscita qualche protesta. Allora, lei ha fatto questo intervento alla Camera. Mi associo all'onorevole Romele. Io sono presente, non riesco a votare, oggi ho perso dai 4 ai 5 voti, chiedo di ritornare all'antico, mi metta pure sul giornale, sono sempre stata presente, io farò causa alla Camera per danno biologico. Onorevole Mondello, la prego di... Grazie. Guardi, faccio il fini, onorevole Mondello, ma... vuol fare causa alla Camera per danno biologico, a parte che forse magari si è lasciata un po' trasportare, non so se la farà, ma perché danno biologico? Ma perché tutto è cambiato con l'introduzione del nuovo sistema. E meno male. Ma il punto è questo. Certo, i pianisti io li ho sempre condannati e penso che avere utilizzato questo sistema per l'opinione pubblica vada bene, bisogna però che il sistema funzioni. Io sono alla Camera da parecchio tempo e ho sempre partecipato con una media di oltre il 96% delle presenze. Praticamente da quando è stato introdotto questo sistema, a me come ad altri colleghi succede spesso di non poter votare perché la votazione viene chiusa nonostante le nostre segnalazioni a braccia alzate, sì, prima che abbiamo potuto esprimere il voto, cioè che la nostra impronta sia stata... Sì, c'è qualche problema. E allora? Sul display compare verificare, verifica, eccetera. E quindi? E questo a me procura uno stato di ansia terribile. Io non sono una persona ansiosa, ne ho dato prova in tante battaglie che ho sostenuto, però ormai ogni volta che devo votare mi viene il batticuore perché pur essendo presente perdo la votazione. Addirittura. Difatti alla conclusione di quella seduta che fu la settimana antecedente di Pasqua, ecco, fu un giovedì, venne il funzionario a dirmi gentilmente che probabilmente devo riproporre le mie impronte. Quindi le ha date male, è questo che... No, ci sono molti colleghi, sì, che proprio addirittura le minuzie non sono state recepite. Onorevole, quindi, però... se non farò causa, quantomeno chiederò di tornare all'antico, tanto io sono sempre presente. Vabbè, tanto lei non ha problemi, però mi perdoni, il danno... Allora, le procura batticuore, ansia, addirittura insomma, la votazione plurima. Ansia. Perché vedere lampeggiare sul display, tu sei lì, la tua votazione non viene ripresa, non viene, diciamo, non puoi esprimerla, senti dire votazione chiusa, tu sei lì, hai perso il voto. Come dire, ma tanto non contano niente i voti alla Camera, lo sappiamo. No, contane come, magari si tratta di un emendamento in cui la maggioranza può andare sotto e praticamente proprio il mio non voto potrebbe essere decisivo. Vabbè, però da qui, per carità, se lei dice mi procura ansia, io non sono quelle cose che non posso ribattere, come possiamo uscirne? Addirittura una causa per danno biologico? No, siccome addirittura io sono una persona in genere per la conciliazione, non per le cause, cercherò di presentare domanda per ritornare alla votazione tradizionale. Vabbè, ma come questa... del resto hanno già fatto molti altri colleghi. Questa le verrà respinta. Cioè, temo che le verrà respinta, anche se sono stati spesi 450.000 euro per fare questo sistema. Ma coloro che purtroppo le minuzie, chiamiamole così, non vengono riprese, è chiaro che devono cercare un correttivo. Non è detto che il meccanismo praticamente sia perfetto. Possono esserci su tante persone delle imprecisioni. Senta, onorevole Mondello, le chiedo, ma mettiamoci nei panni di chi ci sta ascoltando, magari in macchina, tra poco spegne la radio, arriva in fabbrica e passa 8 ore davanti al tornio, magari l'ansia, insomma, no, viene più... No, bisogna provare per credere. Ah sì, io lei dice. Rispetto i lavoratori, a me è stata data dai miei elettori una responsabilità, io li devo rappresentare col voto. Se per motivi che ormai ho accertato da parecchie volte, non era certo quello il primo giorno, io non riesco ad esprimere il voto, devo trovare un sistema perché il mio voto venga accolto. Mm-hmm. E onorevole, che le posso dire? Insomma, in bocca al lupo ovviamente per questa iniziativa. Temo che sia un'iniziativa un po' così, con le gambe corte. No, ma corte, non la faccio, no? Anche perché sì, un po' le dirò, scusi se le dico queste, sì. So benissimo che siamo impopolari, ci hanno reso impopolari, però non si può fare di tutto erba un fascio. Ma no, ci sono per persone carità. Che tengono al loro impegno e vogliono espletarlo al meglio. Tra l'altro, onorevole, mi faccia chiudere con questa battuta. Io so che lei è una che... E qualcuno ha detto è più iena delle iene. Sapete che le iene sono... No, sono quei... Sapete come sono dolci? Quegli sindaco mi chiamavano la mamma. Sono quelli straordinari giornalisti, no? Colleghi che vanno fuori dal Parlamento a fare le domande per beccare i parlamentari che non sanno le risposte. Memorabile quella su cos'è il Darfur, scambiato per il fast food e mandato in onda. Lei invece, che tra l'altro è stata docente, lei ha detto, ma io sono venuti da me. Io ho risposto a tutto e ero perfetta, ho risposto a tutte le domande e quella però non l'hanno mandata in onda, vedete che ci fanno vedere sempre come degli ignoranti, io invece, lei le sapeva tutte, che cosa le hanno chiesto? Mi avevano chiesto, adesso non me lo ricordo a distanza di tempo, ma in particolare ricordo che mi avevano chiesto che cos'era il Copaco e io ho risposto anche perché all'epoca il presidente del Copaco era il nostro ministro ligure Claudio Scajola. Allora, quindi se le chiedo chi è il presidente di Israele, lei lo sa. Pronto? Sì. Pronto? Se le chiedo al presidente di Israele, per esempio. Il presidente di Israele è stato inquisito, ecco, anche per reati di natura, di violenza, e successivamente è Olmert. È Shimon Peres. Vabbè, ma comunque, guardi, facciamo che è un colpo basso, va. È Shimon Peres il presidente di Israele. Quello era il premier. Perché venne inquisito. Sì, quello era il premier. Adesso c'è Netanyahu che è il premier. Comunque, va bene così. Va bene, onorevole. No, la ringrazio. La lascio al Consiglio Comunale di Lavagna. È Shimon Peres il presidente. Ma è la diretta, insomma. Allora, grazie all'onorevole Gabriella Mondello. Io, prima di chiudere, volevo ricordare un'iniziativa tra l'altro che coinvolge Radio 24, perché in occasione della Fiera del Libro di Torino, che si svolge dal 14 al 18 maggio, Radio 24 in collaborazione con la Fiera ha lanciato un'iniziativa che si intitola Io in un libro, prendendo spunto dal tema dell'edizione di quest'anno della Fiera, che è Io e gli altri. E allora vi vogliamo chiedere: in quale romanzo il vostro io si è più identificato? Quale personaggio della letteratura vi somiglia di più? Voi mandate tutte le vostre mail a ilcacciatoredilibri@radio24.it e tra l'altro ogni settimana nella rubrica Il Cacciatore di Libri, che va in onda il sabato intorno alle 8:20, verranno regalati 2 biglietti per la Fiera del Libro, tra l'altro Fiera alla quale sarà presente anche Radio 24 con i propri studi. E allora, chiudiamo qui. vabbè, l'esamino finale è andato un po' così, con l'onorevole Mondello si è fatta prendere forse dall'emozione, tra premier, presidente israeliano. Ci fermiamo, grazie a Alessandro Marco Tulli, Laura Marchesi in redazione, tra poco Giuliano Ferrara, grazie anche a Filippo Aureggi in regia, ci sentiamo domattina.